Si segnala ai responsabili della sicurezza che il passeggero Gianluca Nicoletti viaggia da settimane in ogni treno possibile. Quando arriva a destinazione, sale nuovamente su un altro convoglio e riparte, apparentemente senza meta. Non sembra pericoloso, ma durante il viaggio cambia spesso scompartimento, intrattiene strane conversazioni con altri passeggeri, a volte legge, spesso telefona. Riceve messaggi al suo computer e sembra che il tempo non abbia per lui valore. Alcuni informatori riferiscono che alla fine del suo viaggio scombinato, ad aspettarlo, ci sia una donna. Quale rapporto lo leghi a tale donna, dalle nostre fonti, non è stato specificato. In ogni caso, continuate a seguirlo, mentre il treno va. Il treno va. Perché c'è sempre una donna che aspetta dove terminano i binari. Un programma di Gianluca Nicoletti e Fabrizio Intonti. Sono ancora a bordo del mio treno. E il mio treno va, va sempre. Ringrazio quelli che mi hanno già scritto. Continuate a scrivere perché voglio tanti viaggiatori. Voglio raccogliere gente in ogni stazione. Voglio che ognuno mi racconti com'è la sua vita se raccontata da un treno. Mi è capitato di incontrare un'osservatrice di treno, che è la peggiore, sulle persone che ti guardano, ti squadrano. Quelli che pur viaggiando per lavoro o per dovere fanno dello scopo e del divertimento della propria vita la curiosità di osservare le persone che viaggiano. Fanno finta di nulla, ma sanno tutto di te semplicemente da una stazione all'altra. Viaggio da più di 20 anni in treno, mi sono appassionatissima e molto amante dell'argomento treno, tutto ciò che... Quanto ci passi di tempo in treno? Quanto tempo passi? Ma io ho iniziato a viaggiare quando ho iniziato a fare l'università. Io sono genovese, ho fatto l'università a Torino, quindi ho cominciato ad andare avanti e indietro, e da lì, visto che sono inabile a guidare, nel senso che sono priva di senso d'orientamento e disattenta, non ho mai preso la patente fino all'anno scorso, io ho 41 anni. Quindi Hanno inventato tutto. I navigatori, eh? Sì, ma però sono anche distratta, per cui questo è un aggravante, quindi se mi metto al volante sono un pericolo. Quindi passi molto più tempo in treno che a letto, ad esempio? Facendo una media, io poi non dormo tantissimo, quindi diciamo che si possono equivalersi, non ho mai fatto il calcolo preciso, però di sicuro ho visto tantissima gente dormire in treno, che è un argomento decisamente interessante. E cosa fai quando vedi gente che dorme? Russano di solito? Più che altro sono le posture delle persone che dormono, non so se ti è mai capitato viaggiando in treno di vedere la mascella che si abbandona. No, mi sono accorto di russare tante volte in treno, mi vergogno tantissimo. A volte capita la testa che ciondola in avanti, quindi gente che continua a dormire, questa cosa così, che devo dire che dormire in mezzo ai strani credo che capiti. In ospedale forse capita. Dormirei dovunque. Sì, ma diciamo che il treno è un tipico luogo dove si dorme in mezzo ai strani. Ma tu cosa fai? Li svegli poi? No, assolutamente no, però li guardo ogni tanto con un po' di pudore che è dato dal fatto. Te non dormi mai, non ti addormenti in treno? Io sul treno no. Nell'epica individuale di questa donna, il periodo migliore è stato quello in cui lei ha viaggiato in treno, in cui ha avuto il brivido di stare a contatto con il serial killer dei treni, Donato Bilancia, che uccise 17 persone tra il 97 e il 98, soprattutto in Liguria, e soprattutto le uccise donne in treno. Erano prostitute, ma evidentemente lei non ha notato questa finezza. Lei, ragazza per bene, studentessa comunque, si sentiva minacciata dal serial killer. Il 12 aprile sull'Intercity La Spezia-Venezia scassinò il bagno e uccise Elisabetta Zoppetti. Il 14 aprile tornò a uccidere un'altra prostituta, Cristina Valla. Il 18 aprile tornò nuovamente a colpire su un treno, sulla Genova Ventimiglia. Ammazzò Maria Angela Rubino e si masturbò sul suo cadavere. Il 21 aprile, ad arma di taggia, uccise l'ultima persona, un benzinaio, Giuseppe Mileto. E la nostra viaggiatrice si salvò. Per un po' nella mia linea del treno da genovese c'è stato il serial killer dei treni, quindi Donato Bilancia. Quindi viaggiavo da sola, ma con un taglierino nell'astuccio, perché facevo un tramite. Ma temevi che Bilancia salisse sul tuo stesso treno? No, Bilancia ammazzava le donne sui treni principalmente, sulla mia linea tra l'altro, per cui... Ah, tu eri sulla linea proprio del serial killer? Sulla linea Ventimiglia Milano, Ventimiglia Torino, eccetera. E quindi per un po' mi ero attrezzata con un taglierino e un deodorante tipo Rexona, quelli che usavano... Il deodorante, perché lo profumavi? Si ti ammazzava? No, perché un tempo usavano questi deodoranti che credo che rispetto ai deodoranti di un tempo gli spray al peperoncino attuale siano acqua calda, acqua fresca. Allora, se fosse entrato Bilancia per ammazzarti, cosa avresti fatto? Negli occhi, nel senso, magari uno lo usa come arma, così. Poi in realtà la polizia per un po' ha iniziato a costringere tutti a stare nello stesso scompartimento e a presidiare gli scompartimenti. Poi l'hanno preso, quindi ho lasciato a casa il taglierino e il deodorante. E con il taglierino che facevi? Che tagliavi? Ma così, era solo per avere un'arma, una cosa così, da universitaria che andava in treno. Quindi così era una mia... Beh, certo. Casomai, insomma, un energumeno che ti vuole uccidere. Ti portava nel bagno con la calibro 38, freddava, quindi in effetti probabilmente neanche il Rexona. Ah, ecco perché il deodorante, sì. Così almeno morivi non nell'odore, sì, esatto, del bagno. Sì, esatto, la peggio con l'odore di frutti tropicali, esatto. Quindi, poi una volta ho incontrato anche uno che diceva di essere stata colpo grosso, ci sono un sacco di E perché te lo raccontava? Ha stressato tutti noi nello scompartimento per 2 ore vantandosi di questa sua esperienza da grande. Con le ragazze cin cin? Sì, credo di sì, erano loro, mi sa che c'erano le ragazze cin cin. Si ricorda ai signori passeggeri che nella carrozza 8 è attivo il servizio di ristorazione. Un turbinio di passioni, di paure, di terrori, forse di desideri per questa donna che viaggia in treno. La lambisce il serial killer delle prostitute, ma poi allo stesso tempo c'è lo spaccone da treno, il provolone, quello che pensa di essere irresistibile, che parla dell'unico momento per cui ha valso la pena di vivere, quando è andato in televisione. A fare cosa? A colpo grosso. C'era un programmino softcore in cui casalinghe, studentesse, persone comuni si spogliavano e c'erano le famose ragazze cin cin, le ragazze che erano vestite con frutti tropicali e si spogliavano man mano che il concorrente guadagnava punteggio. Ne ricordo perfettamente la canzoncina con Umberto Smaila. Io ho sempre usato la tecnica delle cuffiette, anche cioè non con i cellulari, perché parlo veramente degli inizi anni 90. Ah, infili le cuffiette per non farti disturbare? Io mettevo le cuffiette per fibre, a parte che avevo sempre il Walkman, poi attendere il lettore CD portatile, poi attendere tutto quello che venuto, gli MP3, eccetera, perché a me ovviamente piace la musica. I sacchetti del cibo a me danno molto fastidio. Allora, cioè, anche lì c'è tutta una catalogazione, perché vabbè, diciamo che io associo l'odore del cibo del treno il più immediato è quello degli agrumi. Se qualcuno apre un arancio, un mandarino, un qualsiasi cosa, immediatamente quello che arriva subito. Che sa tanto di mensa delle suore. Esatto, fa proprio collegio. Cose, esatto, poi i panini al prosciutto cotto anche sono sempre molto... Beh, anche l'odore di cipolla. Sì, poi a seconda appunto della tratta ci sono i treni, non so, uno va da Genova a Torino, ma il treno potrebbe arrivare da Salerno, potrebbe arrivare da Roma, da Livorno, a seconda, e quindi a seconda di dove arriva ci sono anche, poi da genovese la focaccia con le cipolle, per esempio, è molto frequentata anche a colazione. I wanna talk to you about my girl, I wanna talk to you about my girl, I wanna talk to you about my girl, I wanna talk to you about my girl. Cause I love my girl. She's got a pretty, pretty face with lovely pale blue eyes. And she's got fleshy, fleshy lips. And when she's licking them, she makes me feel so warm. I wanna talk to you about my girl, I wanna talk to you about my girl, I wanna talk to you about my girl, cause I love my girl. When I see her, all I want is to spend one night with her. So I try to imagine how I could get closer to her. I wanna talk to you about my girl, I wanna talk to you about my girl, I wanna talk to you about my girl, I wanna talk to you about my girl, cause I love my girl. I would put her in my bed while she's unconscious, I would tear her clothes dresses up and then bite her tits. Excited, I would open her long legs and lick her down until she says stop. I wanna talk to you about myself. I wanna talk to you about myself. I wanna talk to you about myself. I wanna talk to you about myself. 'Cause I love myself. I know by heart my body's sensitive parts, and the only man who could take me on cloud nine. The one hidden in my mind. One day I'll join my reflection, ignoring the sharp pain of broken glass. I wanna talk to you about my girl. I wanna talk to you about my girl. I wanna talk to you about my girl. I wanna talk to you about my girl. 'Cause I want. Il treno va. Sono ancora nello scompartimento assieme all'osservatrice, che ha delle tecniche subdole per osservare senza essere osservata, per nascondersi, mimetizzarsi. Si mette la cuffietta e finge di ascoltare la musica, ma in realtà ascolta i discorsi degli altri. Io la metto per finta, così io ascolto tutto quello che viene detto intorno, perché poi io anche quando sono in giro al ristorante, per strada, ho quello che viene sin dall'ascolto dipotico, per cui anche se non voglio sento tutto quello che mi succede intorno e registro le informazioni. E quindi però se poi le cuffiette, la gente veramente attacca bottone uguale se vuole, però diciamo fa da dissuadi un po' che la gente attacchi bottone. E puoi decidere se intervenire o non intervenire in una discussione, però ascolti, quindi non hai, facendo l'aria vaga, con un libro aperto, facendo finta di ascoltare musica, si può decidere cosa fare, cosa non fare. Quindi potresti farmi delle categorie di interlocutori di treno? Sì, ci sono quelle cose un po' alla Benny, no? Tipo i lettori tipici, i viaggiatori tipici, ecco. Non l'ho mai fatta, devo dire, perché non mi sono mai messa in modo tassonomico a mettere le categorie, però si potrà assolutamente, sì, ci sono insomma, quelli che cercano in tutti i modi di attaccare bottone. Poi c'è una categoria molto, vabbè, a parte quelle classiche, la gente che parla al telefono facendosi, medici che prescrivono, chiedono sintomi, insomma di tutti i generi e tipi, su bambini con le pustole o robe simili. La nostra osservatrice del treno osserva le realtà dei viaggiatori con lo stesso occhio attento con cui le osservò Carlo Verdone ai tempi del suo indimenticabile primo viaggio di nozze. Raniero e Fosca, lui terribile medico, lei Veronica Pivetti, poverina, vittima. Le è riconoscente perché le curò la madre che poi è morta e quindi l'ha sposato. Dicevo, sono nel vagone ristorante e lui risponde alla telefonata di una paziente mentre tutti stanno mangiando. Scusa un attimo. Pronto? No, non mi disturba affatto, mi dica. Ma questo muco me lo fa prima o dopo l'evacuazione? No, non può essere il fegato, altrimenti le feci me le avrebbe fatte bianche. No, il sangue è quello che mi preoccupa meno, perché mi pare che lei già mi soffriva di un pacco emorroidario, vero? Mamma, che cos'è un pacco emorroidario? Per favore, tesoro, stiamo mangiando. Vado un attimo in bagno. Si celere. Senta, allora mi prenda del Crematon 300... Uno la mattina, uno a colazione, due la sera. Qual è la prossima fermata? Me lo dica. Venezia, signora, è l'unica. Allora non si scende. Non se ne esce. Non se ne esce. In che senso, scusi? Faccia attenzione ogni coppia clandestina, ogni uomo o donna in fuga d'amore sui binari del treno, perché l'osservatrice coglierà subito il senso del disagio di chi teme di essere preso con il sorcio in bocca. Io ho beccato più volte dei fedifraghi che si accorgevano al telefono di essere stati smascherati dalla voce che a un certo punto dice: si avvisano i signori viaggiatori che il treno è in arrivo nella stazione di Alessandria. E se uno non è estremamente preparato e sta facendo finta di essere da tutt'altra parte, non è una bella una cosa su dell'altra non parte. È nemmeno intelligente chiamare proprio nel momento in cui sta arrivando alla stazione. No, magari a volte una non ha chiamato, ma riceve la telefonata e uno deve essere estremamente preparato per buttare giù. E cosa dicono questi? Di solito che dicono quando sono beccati dalla voce? Ma no, vabbè, con le classiche immagini, principalmente di solito sono uomini, ma non vorrei farne una questione di genere, ma comunque insomma le classiche farse, insomma, è una pubblicità. Viaggiando in treno ho possibilità di assaggiare l'aspetto sotterraneo, mellifluo, viscido, schifoso della perversione dell'uomo comune. Chissà perché vedo davanti tutti i protagonisti più fulgidi della nostra commedia e del nostro cinema di genere. Mi viene in mente un personaggio interpretato da Tognazzi, tratto da un romanzo di Piero Chiara, La spartizione. Il film era Venga a prendere il caffè da noi, di Lattuada degli anni 70. Lui è Merenziano Paronzini, un invalido della seconda guerra mondiale che si approfitta di tre sorelle, le sposa una ma continua a essere l'amante delle altre due e finirà in tragedia. Ma c'è una scena di questo film che mi ricorda un luogo che sto attraversando con il mio treno e che mi permette probabilmente di fare una sosta. È il monastero di Santa Maria della Misericordia di Missaglia, che è un monastero bellissimo della fine del 400, pieno di affreschi che hanno tutti saccheggiato. Fu chiuso da Napoleone quando fece la confisca dei beni della chiesa, ci hanno fatto il mercato per vari secoli. Poi il comune l'ha restaurato e poi l'ha chiuso e dentro non c'è più nulla, soltanto un monastero vuoto con dei frati sotterrati sotto il pavimento che stanno lì e aspettano. Un personaggio che ho incontrato in treno però è il custode della memoria di questo posto, che è una memoria non certo religiosa, perché questo posto fu la location dove Lattuada girò la scena più terribile di questo film. La scena in cui il prete coglie Francesca Romana Coluzzi, alias Terzilla Tettamanzi, che si congiungeva in un angolo della chiesa con il suo amante. Ma questa qui l'ha chiusa dall'interno. Era l'unico modo per entrare e sorprenderla. E chi l'ha di sorprendere? Adesso te lo spiego io. Senti qua, signor Prevosto, la signorina Tarsilla Tettamanzi, tutti i giovedì quando la biblioteca è fermata al pubblico, si chiude all'interno e fa entrare dal giardino il proprio amante, col quale se la gode nel convento. Ora Peppa! L'amante entra alle 3 dalla porta di via Crosa e va via dopo un paio d'ore. Urca bestia, una signorina in cibrao. In ogni caso mi puoi fare da testimone. No, vengo mica mi tribunale. Come? No, tribunale, niente. Una persona alla quale avevamo dato tutta la nostra fiducia, che ha influenza morale sulle giovani della parrocchia, e Tusanelle, figlie di Maria. Le figlie di Maria in Giamovà per conto suo. Cosa dici? Ma la sei aperta. La passione nel descrivermi l'atmosfera sacrilega della Misericordia di Missaglia di questo signore mi ha convinto, tanto che scendo dal treno e con lui vado proprio al centro del monastero. Lui ha la chiave, entro dentro, in quella navata desolata. Lui mi racconta quello che accade il giorno che Lattuada girò la scena della seduzione in chiesa. Ma lì hanno girato, lì in quella scena lì? Dov'è? Qui, l'hanno girata qui. Come funzionava? C'era lei che era nascosta col sagrestano dentro lì, no? No, no. Il sagrestano era nascosto lì. Ah, ecco, sì. Lì così, no? Lì in quella. Qui c'erano tutti. Là è la portina dove sono entrati. Ah, l'amante, con l'amante. Ah. Sono venuti qua. E loro dove hanno consumato? Qua così. In quell'angolo lì. E là spiavano. C'era il sacrestano che spiava. Ah, ecco. Era uno di Missaglia. Ah, che beh, resiste davvero il sacrestano. E poi quando entra il prete, dove entra? Il prete entra da lì. Era nascosto col sacrestano nel confessionale lì. Ah, ecco. Poi loro nel consumare hanno fatto casino. Ah, da lì dietro quell'arco era, dietro quell'arco. Si sono si è vista lei nuda, la prima scena erotica. Nuda che correva e uscita da quella porta là. È uscita nuda da quella porta lì. Questo è il posto dove, la scena unica, scena zozza, una delle tre sorelle che si trovava a Tripletta Tognazzi, si congiungeva con un suo giovane amante in questa sorta di cripta e naturalmente di fronte alla cappella dove stava il prete che la colse sul fatto e la cosa finì così. Basta! Eretici, profanatori! Dai Giacomo, fuori, fuori, muoviti! Non guardare, Giacomo, non guardare! Vergogna, signorina Tettamanzi! Per me è pane quotidiano. È un racconto su cui sono nato, sono cresciuto. Racconti di parroci, di fedeli, di frati cercatori fanno parte della mia cultura campestre. Io vengo da una terra molto vicina alla città di Assisi, in cui era fatale questa contaminazione fra lo spirito campestre fatto di sbornie fatte in occasione delle mietiture, delle vendemmie e di frati che passavano e ripassavano a fare la questua e non soltanto a far quello. La pietà e il fervore religioso non bastano a spiegare l'ideazione di arditi simulacri di frati cappuccini in fantasiose contaminazioni. Molto si è detto e scritto sulla gadgettistica di Padre Pio, ma non è stato fatto da altri un cenno a quel mercato semiclandestino di oggettistica fratimorfa che nella città del Poverello ancora persiste. Una deriva incontrollata di santi opifici, di supporti alla devozione con intento torbido e scurrile, creò il frate Favarone, vergogna di Assisi. Io me lo sono procurato per poterne gustare l'ingegno costruttivo. In sintesi, è un fraticello indecente che sfodera un fallo poderoso dalla tonaca se si esercita una piccola pressione sul capo. Il monoblocco del frate, composto di gambe, braccia e tronco, è cavo al suo interno e misura 16 cm, compresa la testa, che però è staccabile. Le mani sono applicate sulla pancia e possono essere rimosse. Il piedistallo circolare è dello stesso colore dei piedi e delle gambe. In gran parte della sua essenza, altro non è che un pezzaccio di plastica marrone con il saio di pannolenci e un filo di lana per cordone. I sandali sono appena modellati e la testa fa corpo unico con l'apparato elevatore che culmina con il membro virile lungo 5 cm e molto realistico. Il meccanismo si avvale di un piccolo elastico che riporta la testa alla posizione di partenza dopo la fase erettile. L'espressione del volto è a metà tra l'estatico e il demente. Per quanto sia grave lo scandalo che potrebbe arrecare, di certo è assai breve nel tempo. Dopo una cinquantina di elevazioni, l'elastico si rompe, è impossibile sostituirlo e il frate finalmente ritrova la pace. Solo un oculato risparmio di usura al meccanismo farà vivere a lungo la mascolinità del nostro Favarone. Nell'anno 1999, con un'ordinanza comunale, sarebbe stato addirittura messo all'indice. Un assessore ne avrebbe fatto vietare l'esposizione e la vendita. Chi dice da 5 anni, chi da 20 anni, chi per l'occasione del giubileo del 2000. Mancano notizie precise anche sulle sanzioni per chi lo detiene e lo commercia. 1 milione di multa, possono anche ritirare la licenza, chiudono l'esercizio. Comunque, a tutt'oggi, ancora non è chiaro quando l'irriverente fratacchione sia stato bandito. È certo che ad Assisi sia possibile trovarlo senza fatica. I heard about a tiki tiki boy, he had a famous tiki tiki toy. Don't try, don't go, oh no no no no no no no no no no. I heard about a tiki tiki boy, he had a famous tiki tiki toy. Don't try, don't go, oh no no no no no no no no no no. The other people really really joke about his curious tiny tiny stroke. Don't try, don't go, oh no no no no no no no no. Just don't try, don't go, oh no no no no no no no no no no. The other people really really joke about his curious tiny tiny stroke. Don't try, don't go, oh no no no no no no no no. You are just so human. You are just so human. And you are just so human. You are just so human. And you are just so human.

circondato da salici piangenti e giunchi. D'estate si sentivano i rospi in amore e le bisce sotto il sole nuotavano come saette con la testa fuori dall'acqua. Quel posto aveva un odore di fango ed erba marcita. La mattina presto andavo a pescare mentre era ancora buio, ma i pesci che potevo prendere all'amo erano tinche, piene di spine e poco mangiabili. Chissà perché mio padre mise le tinche e non le carpe, che invece erano buone da mangiare. Prevalse anche in quel caso il suo solito istinto mortificatorio di ogni piacere. Per questa ragione sono stato allevato con l'idea che tutto quello che può rendere felici vada visto con sospetto e possibilmente occorra astenersene. Si informano i signori passeggeri che fra qualche minuto passerà in carrozza il personale del treno per offrirvi un piccolo spuntino. Quando mi passa accanto il carrello del buffet, e accade spesso a ogni cambio di stazione, la domanda fatale è: biscotti o salatini? E io non so mai rispondere, non so decidere, non so scegliere, perché così mi hanno educato. Bisogna sempre dire di no quando qualcuno ti offre qualcosa di buono e rimanere con il desiderio. Anche nelle piccolissime cose sono stato abituato a rinunciare subito ad ogni offerta sollucherosa. Le signore che ci portavano a fare visita aprivano davanti a me e mio fratello scatole di dolcezze e cioccolatini che mai ci saremmo sognati di vedere entrare in casa nostra. Ma noi dicevamo no grazie, non ci va, anche se avevamo la bava alla bocca. Eravamo stati educati così. La santa micragna da dover ricordare prima di ogni azione era un concetto non necessariamente ispirato a ristrettezze oggettive. Era un principio assoluto. Un'azione, se porta piacere gratuito, va repressa all'istante. Per tutta l'adolescenza e gran parte della prima giovinezza, questo principio di vita mi rese sì persona austera verso le mollezze della gola, ma molto anche verso quelle della lussuria. Avevo stampata in testa l'idea che l'intima d'azione a mio beneficio da parte di una femmina fosse un gesto che per lei rappresentasse un cosmico sacrificio, come se si trattasse della fetta di prosciutto che latitava solitaria in frigo e nessuno osava addentare per non sentirsi ladro. Non è che io parli soltanto e ascolti le persone che sono sedute accanto a me in treno. Io posso parlare con le persone anche per telefono, posso leggere i messaggi che mi mandano, sono super attrezzato, sono ipertecnologicamente collegato. E già le prime persone hanno cominciato a mandarmi i loro messaggi scrivendo a iltrenova@radio24.it. Qualcuno mi ha chiesto di poter sedere accanto a me e viaggiare un po', e qualcuno farò sedere accanto a me. Altri mi hanno mandato semplicemente la loro storia perché la facessi ascoltare a chi viaggia in treno. Oggi spero proprio che il treno non porti nemmeno un minuto di ritardo, perché devo andare da mia figlia. Dimenticavo, sono Rossella e ho 40 anni. Sono bravissima ad incastrare tutto. È così da quando con mio marito ci siamo lasciati e a pensare alle nostre due figlie ci sono rimasta io. Non è facile stare insieme per anni, affrontare le rogne quotidiane e divertirsi anche. Però io mi sentivo forte. E poi succede qualcosa che ancora adesso a pensarci mi sembra un sogno. Non so quando è iniziato, ma la sera mio marito veniva a dormire sempre più tardi. A volte mi addormentavo sul divano e quando andavo a dormire lo trovavo sveglio davanti al computer. Diceva che aveva ritrovato vecchi amici delle scuole medie su Facebook e che ci chiacchierava. Dormiva pochissimo e di giorno cascava dal sonno. E poi improvvisamente gli dicono al lavoro che deve fare qualche notte per sostituire un collega malato. Ma a me qualcosa non torna. Il cellulare sempre in mano, se lo portava ovunque. Io ci ho pensato che ci potesse essere qualcun'altra, ma un giorno accade un fatto che mi stordisce come una bastonata. Mio marito aveva un tatuaggio sul polso. Una croce. Ognuno dei quattro spazi delimitati dalla croce doveva essere occupato da una lettera, l'iniziale di nomi per lui importanti. E lui si era fatto tatuare tre lettere. La G di Giovanna, la prima figlia, la C di Carlotta, la seconda, e la B di Bruna, sua madre. Nel quarto spazio non c'era nulla, perché lui diceva che credeva solo nel vincolo del sangue, che solo quello era eterno. Una sera torna con una lettera tatuata, una M. Gli chiedo spiegazioni e lui mi dice che quella lettera stava per Marianna, la sua nonna amatissima, morta in quello stesso anno. Ma non so perché qualcosa non mi tornava. Lui era sempre più distante, non avevamo più rapporti, le notti al lavoro aumentavano. Ho deciso di seguirlo. E una sera ho lasciato le bimbe a mia madre e l'ho pedinato. E scopro la storia più antica del mondo. Lui si vedeva con un'altra donna. È stato un attimo ricostruire tutto. Lo metto di fronte a quanto so, lui non nega, ma crolla subito, quasi sollevato, e ammette che è innamorato di un'altra, la cui iniziale ovviamente aveva occupato il quarto posto sul suo polso. L'ha conosciuta su Facebook. Lei appartiene ad una setta religiosa e lo ha completamente stregato, tanto da convincerlo a cambiare religione, a lasciare il suo lavoro e a lavorare con lei nella sua associazione. A quel punto c'è stato poco da fare, perché l'ho messo di fronte ad una scelta, o lei o la nostra famiglia. Un giorno mi arriva una richiesta di separazione tramite un avvocato, in cui mi viene anche imposto di lasciar vedere le bambine al padre almeno 3 giorni a settimana. Lo chiamo subito per capire cosa significhi questa comunicazione. Lui non si fa trovare. Parlo con mia suocera. La telefonata degenera in una discussione assurda in cui lei mi accusa di non essere stata capace di tenermi il marito, che però ha trovato chi è sicuramente più capace di me. E tra una reticenza e una minaccia viene fuori che da 2 mesi mio marito si è trasferito con la sua amante dai genitori, che sembrano apprezzare molto questa nuova sistemazione. Mio marito si è licenziato e quindi al momento sono io che guadagno di più. Quindi, oltretutto, devo anche passargli una sorta di alimenti. Non ho consigli da dare a questa ascoltatrice. Posso soltanto riferirle quella che è la frase che disse un'amica mia all'amante del marito. Ora che ti sei presa la salsiccia, prenditi anche il maiale tutto intero. E glielo mollò e l'altra se lo portò via. E la mia amica da allora fu felice. Il treno continua a camminare. Io continuo ad ascoltare e continuerò a raccontare mentre il treno va. It's like looking down the barrel of a gun and it goes off. And out come all these words. Oh, there's a very pleasant side to you, a side I much prefer. It's one verse. Laughs and jokes around. Remember cuddles in the kitchen, yeah, to get things off the ground. And it was up, up and away. Oh, but it's way hard to remember that on a day like today when you're all argumentative and you've got a face on. The one that I can't bear, well, can't we just laugh and joke around? Remember cuddles in the kitchen, yeah, to get things off the ground. And it was up, up and away. Oh, but it's really hard to remember that on a day like today when you're all argumentative and you've got the face on. And yeah, I'm sorry I was late, but I missed the train. To get things off the ground. And it was up, up and away. Oh, but it's really hard to remember that on a day like today when you're all argumentative and you've got the face on.